In Chains, questa era Heaven Beside You. Un buon pomeriggio a tutti dal DJ Edo Rossi, ben ritrovati, un saluto naturalmente al grandissimo Chuck Bird con il suo backstage pass e naturalmente anche al buon Max De Rieu, bello imbibinato di Kiss. Allora, un buon pomeriggio Come al solito, due ore per stare insieme al DJ Edo Rossi, dove naturalmente faremo quattro chiacchiere attraverso l'interazione, se vorrete, attraverso il numero SMS 335 100 77 77, oppure con l'email edo@rockfamily.it, che al momento sta dando qualche problema, quindi magari utilizziamo rockfamily.it per le comunicazioni via web, diciamo. Intanto parte un Tris Dassi, Jethro Tull, BB King e U2. Thank you. thing until the day I die. 17:29 qui da Rock FM con Edo Rossi alla voce. Allora, come detto, potete continuare a scrivere i vostri sms al 335-100-7777. Per quello che riguarda l'email, invece, vi mando sul sito rockfamily.it, nel quale ho aperto un, come dire, una discussione, un topic sul quale, se volete utilizzare internet al posto che mandare degli sms, insomma, una sorta di sostituzione di quella che è la mia solita casella email, visto e considerato che oggi fa le bizze, non funziona. Quindi, se volete scrivere lì, io leggerò direttamente dal sito di rockfamily.it le cose che avete da dirmi. Intanto, ancora buon rock and roll, questa volta firmato Doors. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can we still recover?